Il gastronauta di Davide Paolini. Il freddo, la neve, queste temperature così che invocano cappotti e magari pastrani, ebbene chiamano anche un prodotto che sono le castagne. Ebbene, un tempo le castagne servivano molte volte alla sera per fare la zuppa con il latte, per chi aveva non molto da mangiare, specialmente nei borghi rurali. Ebbene, poi sono nate le caldarroste, sono nate le castagne bollite e poi ancora piano piano nel tempo si sono trasformate, è nata la farina per preparare la pasta e poi i marron glacé e poi la birra e poi tantissime altre cose di cui andremo alla scoperta durante questa trasmissione. Quindi buongiorno dal vostro gastronauta e buone castagne. Cominciamo questo viaggio alla scoperta di questo frutto straordinario, perché diciamo può essere usato in mille modi. Cominciamo da un consorzio appena nato della farina di castagne del Prato Magno e del Casentino. Buongiorno al signor Pistolesi. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Buongiorno. Bene, la vostra è una zona vocata alle castagne. Come mai avete pensato di dar vita a un consorzio? Forse per tutelare questo grandissimo prodotto che è la farina di castagne? Esattamente, cioè la nostra peculiarità è questa, vorremmo riproporre anche una DOP del prodotto, anche perché nei nostri territori è cultura la castagna, noi abbiamo delle risalenze a circa oltre 1000 anni fa, dove appunto nei nostri cittadini vivevano quasi esclusivamente del prodotto castagna e dei castagneti. Ecco, cosa anticamente, cioè nel passato, lei ha detto quindi che c'è una lunga tradizione, qual era i piatti, come veniva usata la castagna allora, come veniva utilizzata? Da noi da sempre è stato la finalità era la farina, perché abbiamo disseminato nel nostro territorio addirittura alcune centinaia di seccatoi, poi nel paese venivano messi in funzione 3 molini, di cui uno l'abbiamo recuperato proprio adesso, proprio per produrre la farina e il contenimento del prodotto tutto l'anno su dei cassoni appunto di castagno proprio predisposti, ed era il pane quotidiano, era la pietanza quotidiana della nostra gente fino ad alcuni decenni fa. Per tutto l'anno praticamente veniva prodotto la farina di castagne proprio per mixare poi chiaramente con i prodotti del maiale, arringa, però la base era la farina di castagne. Ecco, con l'arringa, questo è un accostamento che non ho mai sentito, quindi come veniva, qual era questo piatto? È l'abbinamento dolce salato che è peculiare del nostro prodotto, perché proprio la farina messa nel piatto, diciamo con il cucchiaio classico, poi con l'arringa accanto il baccalà. Era un diversivo rispetto al maiale, perché lei come sa benissimo il salciccio oppure il classico rigatino è l'abbinamento specifico del nostro prodotto, per fare il prodotto appunto dolce salato con il mix anche della ricotta e del formaggio, che è l'abbinamento che va in uso adesso nelle nostre tavole. Senta Pistolesi, questa farina può essere utilizzata anche per il pane? Certo, facciamo il pan di bosco, che è un mix di farina di castagne, 1/3 di farina di castagne e 2/3 di farina bianca, e facciamo 2 tipologie di pane, il classico pane proprio per mangiare a tavola, oppure integrato con delle spezie, per esempio dei piccoli pinoli, il castagnaccio fatto in forma di pane. Ecco, quello era il dolce, con un'aggiunta ulteriore di una percentuale un po' più alta della farina di castagne sulla farina bianca. Senta, c'è anche qualche accostamento strano, inedito, nuovo che è nato negli ultimi tempi, che lei sappia? Si sta facendo le crocchette di farina di castagne, praticamente è una omelette, fatta come appunto dove si facevano la piccolissima sfoglia su una piastra calda, e rivoltando la crocchetta la pieniamo di Nutella, di cioccolato. Ah, ecco, quindi arriviamo a un piatto. Sì, arriviamo ad oggi. Bene, arriviamo ad oggi. Bene, Pistolesi, io la ringrazio. Ecco, come consorzio, voi quanti produttori avete? Abbiamo 24 soci, stanno entrando anche altre persone, quindi stiamo iniziando un grosso lavoro anche a livello Castagneti, però diciamo l'inizio è buono perché stiamo recuperando appunto questo prodotto che per noi era storia. Ecco, qual è la varietà di castagne che voi usate in Prato Magno? Abbiamo tre tipi di castagne, la pistolese, la monghistolla e la tigolese, che sono tre tipicità nostre, sono castagne tra virgolette di minore grossezza, però buonissime per quanto riguarda il riferimento della castagna, perché hanno un contenimento di glucosio più alto e il mantenimento del prodotto è una cosa eccezionale, perché noi, come forse non sapete, facciamo un secondo passaggio di essiccatura della castagna, quindi appunto per il mantenimento del prodotto nel tempo e per fare la polenta di baldino in tempo minore, perché ha più bisogno di acqua. Cos'è il baldino? Il baldino è il castagnaccio. Ah, voi lo chiamate baldino? Noi lo chiamiamo baldino perché il castagnaccio di solito è fatto con le noci. Sì. Il baldino invece è una diversificazione, viene fatto con i pinoli. Bene, bene, io credo che però più diffuso sia quello con i pinoli, quindi sì. Bene, grazie a Pistolesi del Consorzio della Farina di Castagno del Prato Magno del Casentino. Ora andiamo in Molise, andiamo da un personaggio che rappresenta la cucina, la ristorazione molisana, andiamo da Bobo Colombo. Buongiorno Bobo. Buongiorno, ciao. Il ristorante Ribo di Guglionesi, eccoci qua. Allora, io so che tu fai una minestra a base di castagne, ce la vuoi spiegare? Perché è abbastanza insolito. Tre varianti. Io questa ricetta, la prima, l'originale, me l'ha data un amico di Aranilpino, Guglielmo, era una minestra di fagioli e castagne che facevano, era un piatto quasi giornaliero perché lì c'era molta povertà, e quella zona era ricca di castagne e di fagioli, facevano questa minestra di castagne e fagioli. Poi l'ho provata, mi ha dato la ricetta, è una cosa meravigliosa, però a me piace modificare le cose. E ho fatto altre due varianti molto belle. Una facendo sempre la minestra di fagioli e castagne così, poi una volta impiattata con lo schiaccia patate, ci mettevo della ricotta meravigliosa d'Alto Molise schiacciata tipo passatelli sopra, che alleggeriva tantissimo il piatto, perché dato che la castagna è dolce ci va molto peperoncino per togliere il dolce dalla castagna. Poi questa ricotta fresca gli dà una sensazione di freschezza meravigliosa. Poi non mi andava bene neanche così, perché questa qui andava bene per chi mangiava carne, chi mangiava pesce, dato che c'è il locale che si mangia anche il pesce, l'ho modificata col pesce facendo la stessa ricetta, aggiungendo alla fine, due minuti prima di toglierlo dal fuoco, dei calamaretti e degli scampetti sgusciati, un po' di prezzemolo e appena un po' di basilico, e la gente dice che è meraviglioso. Io non mangio pesce, non l'ho mai assaggiata col pesce. Però bene, come i grandi cuochi anche tu non assaggi i tuoi piatti, però questo accostamento col pesce è davvero originale e molto particolare, caro Bobo. Tu sei sempre così, vai sempre a trovare appunto delle stravaganze ma sempre riuscite. Io ti ringrazio di questo piatto, di questa ricetta che ci hai dato, magari che qualcuno proverà. Grazie a Bobo Colombo del ristorante Ribo di Guglionesi. A presto Bobo. Ciao, grazie, ciao. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di castagne. Abbiamo già cominciato a sentire delle variazioni sul tema, magari originali e inedite, e soprattutto abbiamo sentito questa ricerca di tornare al molino tradizionale per ottenere una grande farina di castagne. Ma è un prodotto davvero molto disponibile ad essere utilizzato in cucina in tantissime maniere. Ora andiamo in Basilicata, andiamo a Matera, da un personaggio che ogni tanto chiamiamo perché sui prodotti tradizionali sicuramente nel ristorante che gestisce si trova sempre qualcosa di particolare. Andiamo da Enza Leone delle Lucanerie di Matera. Buongiorno Enza. Buongiorno signor Davide, come va? Tutto bene? Bene, grazie. Allora io so che voi fate addirittura un menù praticamente. Sì, sì, sì, sì. In questo periodo stiamo dando un menù a base di castagne, porcini e tutto quanto. Abbiamo dei piatti nuovi a base di castagne perché noi ogni anno ci rinnoviamo. Ci dà un piatto originale, sì, magari certo, dell'ultima ora. No. Stiamo dando dei ravioli di fagioli di Sarconi con crema di castagne e alloro, con pomodori secchi e guanciale di maiale affumicato. È un primo che sta avendo un successo enorme perché è molto gustoso e tutto quanto. Ma poi fate anche magari una cosa tipo dessert con la ricotta? Se... Certo, certo, sto dando un semifreddo di ricotta di capra con castagne e amaretti, tutto con cioccolato fondente. Ecco, Enza, ma la ricotta di capra, diciamo, si combina meglio con la farina di castagne rispetto, con le castagne rispetto alla ricotta vaccina? Sì, sì, molto, molto, anche perché io faccio anche gli gnocchi di castagne con ricotta di capra e noci e cannella. Beh, quindi diciamo che cioè, la farina di castagne o le castagne vengono molto utilizzate in cucina da lei? Sì, perché comunque hanno un sapore delicato, quindi li puoi abbinare a qualsiasi ingrediente, perché noi diamo anche del filetto di maialino con crema di castagne e vin cotto. Diciamo che le castagne si sposano bene con qualsiasi piatto. Ecco, ma ci sono delle castagne particolari nella vostra regione? Noi stiamo avendo quelle del Pollino, che sono di piccola pezzatura, però sono saporitissime. Di solito quelle grosse grosse non hanno molto sapore. Invece quelle che stiamo avendo quest'anno sono di un gusto proprio intenso. Ho capito. Bene, grazie Enza Leone delle Lucanerie di Matera. E ora, come dicevo, dalla farina di castagna e della castagna ormai si ottiene tutto, ma ci sono anche delle grandissime sorprese e queste sorprese vengono anche dalla gelateria. Ebbene, a Firenze esiste una gelateria che si chiama Carapina, che addirittura ha lanciato da tempo con grande successo un gelato al castagnaccio. Buongiorno Simone Bonini. Buongiorno. Come ha fatto a ottenere, come le è venuta in mente di fare questo gelato al castagnaccio? Ma è venuta praticamente spontanea, perché è una ricetta tipica toscana. Niente, volendo fare qualcosa di veramente particolare, di rispettare il territorio, è venuto naturale riscoprire questo nuovo gusto, senza non fare marron glacé o le classiche castagne, ma bensì la vera torta al castagnaccio. Insomma, è un gelato da fine pasto? Sì, assolutamente sì. Si parte proprio dalla farina macinata a pietra e via. Quindi è addirittura una materia prima di primissima qualità, insomma, va a ricercare. Sì, sì, sì, assolutamente. Abbiamo adesso, ad esempio, stiamo aspettando la prima farina dell'ultima raccolta e infatti stiamo aspettando per rifare il nuovo gusto che di qui a pochi giorni rifaremo. Insomma. Quindi lei ormai, io so che lei fa castagnaccio, fa panettone, fa addirittura biscottini di prato con vin santo, quindi diciamo una linea di gelateria completamente inedita e abbastanza innovativa. Ormai quando abbiamo aperto con l'idea di fare una gelateria molto trasversale alle altre, comunque innovandoci sempre rapidamente nei gusti, e quindi abbiamo fatto questa crema vin santo simulando il gesto che si fa notoriamente sulle tavole toscane. Di inzuppare il biscottino, insomma. Esatto. Bene, allora ricordo gelateria Carapina a Firenze, gelato al castagnaccio e tante altre specialità, ovviamente anche quelle normali, ma soprattutto, visto che parliamo di castagne e di farina di castagne, questa segnalazione di questo gelato particolare. Bene, avevo detto prima panettone e ora andiamo nel vulture da Emilio Telesca del panificio Re Falconiere. Buongiorno Telesca. Buongiorno a lei, signor Davide. Lei continua a fare quel famoso panettone con le castagne? Certo, certo, come sempre. Ecco, certo. Mi racconti un po' di questo panettone, come le è venuta l'idea di farlo in questa maniera? Niente, in qualche modo volevamo mettere insieme quella che è la nostra tradizione di famiglia, che siamo panificatori al territorio. Noi siamo del Vulture, siamo immersi nei castagneti del Monte Vulture. Quindi siete immersi tra l'aglianico, l'olio, esatto. E questo. Senta, ma come reagisce la gente nel vedere un panettone diverso, cioè il panettone alle castagne? Così c'è qualche reazione oppure c'è curiosità? Beh, all'inizio all'inizio c'è molta curiosità, poi assaggiandolo sembra di mangiare un altro prodotto proprio, sembra un panettone che esce un po' fuori dai canoni tradizionali, anche se un panettone che rispetta chiaramente il disciplinare della produzione. Cioè lei usa sempre il lievito madre? Allora, io uso sempre il lievito madre, faccio i tre impasti, dopodiché chiaramente come il disciplinare impone usiamo del burro, in questo caso burro fresco di un'azienda locale proprio, latte fresco, e uova in percentuale abbastanza alte, come dire. Quindi le uova insomma sono consistenti. E quindi usa anche canditi e altre cose o no? Oppure no? Abbiamo una linea che è il panettone tradizionale, però all'interno di questo panettone specifico alle castagne usiamo le castagne glassate. È un po' di farina di castagna proprio nell'impasto. Bene, io la ringrazio. Allora ricordo, panificio Re Falconiere di Telesca, siamo in Basilicata, come avete visto siamo già andati due visite in Basilicata, questo panettone di castagne del Vulture. Grazie, a presto e buon lavoro per Natale con il suo panettone originale. Bene, ora sentiamo Ercole Lega, andiamo a Palazzolo sul Segno. Perché andiamo da Ercole Lega della Locanda del Segno? Perché anche questa zona del Mugello è sicuramente una zona vocata alle castagne, ma in questo ristorante si usa la farina per fare tutta una serie di prodotti e quindi di piatti particolari fatti con questo frutto autunnale. Buongiorno Ercole Lega, salve. Buongiorno Davide, come stai? Bene, allora cosa facciamo? Cosa mangiamo oggi a base di farina di castagne? Farina di castagna, a parte i dolci che sono tradizionalmente un po' in tutta Italia, noi la adoperiamo molto sui primi piatti. Me li racconti un po' questi primi piatti? Allora, noi adesso in menù ne abbiamo due. Uno sono le tagliatelle classiche, alla romagnola toscana, diciamo, perché visto che noi siamo al confine tra la Romagna e la Toscana. E l'altro sono i gnocchi di ricotta con la farina di marroni, altro piatto veramente molto particolare, molto delicato. Quindi tu hai fatto un distinguo tra castagne e marroni. Sì, perché noi per noi il marrone è perché qui siamo nella zona del marrone, tra l'altro è stato uno dei primi a avere la classificazione protetta, cioè quindi qui nel Mugello. Noi siamo Alto Mugello, tra Marradi e il marrone di Marradi è famosissimo per il marrone glacé ai tempi anche della regina Caterina dei Medici che è andata a sposa in Francia, quindi di lì è nato il marrone glacé. E poi perché il nostro è il marrone, non è la castagna, cioè, quindi il prodotto è il marrone. Quindi anche le tagliatelle le fate con il marrone? Sì, con la farina di marroni. Sì, con la farina di marroni. Senti, ma ci sono dei mulini che macinano? Sì, ce ne abbiamo ancora uno, grazie a Dio. Anzi, due forse. Uno adesso lo abbiamo ancora in piedi e macinano con la pietra, sì, esatto. Sì. Infatti la nostra farina è di quella lì, quindi è garantita chilometri zero, il famoso chilometro zero che sta andando tanto in voga adesso, capito? Senti, un'ultima cosa. Hai parlato di tagliatelle alla moda tosco-romagnola. Sì. Cosa significa questo? Che c'è il ragù di carne con cosa? Esatto, è un ragù di carne di questo allevamento di maiali che abbiamo io e Marco insieme, che tu conosci, che è un mixer, un ecosistema di maiali tra cinta, mora e large white e cinghiale. È una carne molto rossa, molto delicata, ed è un ragù bianco, senza pomodoro, solo con le verdure classiche. In più noi oltre alla cipolla ci mettiamo anche un po' di scalogna. Che vino ci mettiamo vicino? Beh, adesso qui io preferisco vini legati al nostro territorio, quindi abbiamo il classico Sangiovese delle colline, qui delle prime colline di Brisighella o Imola che fanno degli ottimi Sangiovesi, oppure scendendo giù dall'altra parte, nella zona di Rufina, abbiamo il Pomino, che è quello del vicino lì alla zona di Pomino, oppure anche lì un Chianti che diciamo l'uvaggio è Sangiovese. Ecco. Bene, grazie Ercole Lega della Locanda Segno, Palazzolo sul Segno. Il nostro amico Lega ha ricordato appunto Marradi è uno dei punti di riferimento delle castagne, anzi dei marroni in Italia, diciamo una delle grandi capitali. Ebbene, tutta questa zona del Mugello offre non solo castagne e marroni, ma offre tantissimi altri prodotti naturali davvero di primissimo livello, a cominciare dai funghi. E tra l'altro è un'area ancora incontaminata, non è stata così battuta dal turismo di massa, dal turismo domenicale. rurale è ancora molto selvaggia e ci sono molti, molti borghi che sono veramente bellissimi, tenuti molto molto bene, a cominciare appunto da Palazzuolo, dove quando si arriva addirittura si vedono fiori anche nei fiumi, fiori si vedono un po' ovunque, quindi ancora c'è l'ambiente che veramente non è per niente degradato e molto ma molto rispettato, quindi un weekend in questa zona è davvero consigliabile. Ci sono anche delle fattorie didattiche e quindi da andare a visitare, quindi la consiglio vivamente. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a cercare quello che c'è di originale tra le castagne e i marroni dell'Italia, un po' in tutte le zone appunto vocate a questo frutto magico che, come abbiamo già sentito, si può trasformare in gelato, si può trasformare in panettone, si può trasformare in piatti prelibati. Bene, ora andiamo da un'azienda biologica, di un'azienda biologica che produce addirittura castagne fresche per il mercato. Andiamo da Gabriele Marano. Buongiorno Marano. Buongiorno. Allora, mi spiega un secondo, diciamo, cosa significa castagne fresche per il mercato? Significa che in effetti noi le raccogliamo rispettando quello che è il regolamento comunitario, i regolamenti nazionali e regionali per il bio, e le consegniamo alle ditte che poi trasformeranno il prodotto in tutti quei prelibatissimi prodotti che troviamo sul mercato, quindi castagne del prete, gelato e tutto ciò che in effetti riguarda la trasformazione. Da quanti anni voi siete azienda biologica? Noi siamo biologici dall'86-87. Quindi siete degli antesignani su questo? Sicuramente. Posso aggiungere che l'Alta Valle del Calore, quindi l'area IGP Castagna di Montella, ancora non è stata aggredita da quelli che sono i prodotti fitosanitari per combattere le malattie del castagno, quindi è un'intera area, la valle, in biologico. Posso ammetterlo perché conosco molto bene tutta l'area. Senta Marano, com'è l'annata 2008? Com'è stata l'annata 2008? L'annata 2008 non è stata un granché. Gli andamenti delle temperature, soprattutto delle piogge, hanno un po', sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo, inciso negativamente sulla produzione finale, quindi non abbiamo avuto una grossa produzione né qualitativa né quantitativa. Quanto costa un chilo delle vostre castagne? Noi all'ingrosso siamo intorno all'€1,20, l'€1,30 all'ingrosso, invece all'interno delle rivendite siamo arrivati intorno ai 4 euro, quindi al finale intorno ai 4,50. C'è differenza tra il costo delle vostre castagne biologiche e le altre non biologiche della vostra zona, della castagna di Montella? Da un paio d'anni sì, da un paio d'anni abbiamo delle differenze perché le industrie di trasformazione, anche i grossisti, chiedono castagne certificate bio, quindi stiamo realmente fatturando come bio. Bene, io la ringrazio Marano, grazie. Allora, abbiamo detto che andavamo alla scoperta di moltissime novità del mondo della castagna, del mondo del marrone. Bene, eccola la novità, una delle grandi novità, abbiamo sentito il panettone, ma ora un'altra molto importante che è la birra alle castagne. Perché vi dico importante? Perché ormai le birrerie artigianali italiane, alcune, si stanno proprio differenziando dal resto del mondo delle birrerie artigianali proprio per questa loro caratteristica di aver scelto la via dalle castagne. Buongiorno a Remo Boschi della birra Beltaine di Monghidoro. Monghidoro è nell'Appennino bolognese. Buongiorno Boschi. Buongiorno. Monghidoro è la sede della cooperativa. Ah. La birra, la birra viene fatta in comune di Granaglione. Bene, Granaglione dov'è? In provincia di Bologna? Granaglione sempre. In provincia di Bologna, nell'Alto Reno, 7 chilometri dopo Poretta, al confine con la Toscana. Senta Boschi, ma com'è stata questa idea di produrre una birra alle castagne? Beh, noi come cooperativa cooperativa Campeggio Monghidoro, ecco perché Monghidoro è la sede, perché è una cooperativa sociale che opera qua, solo dal 1 gennaio 2007 si interessa della birra perché ha acquistato il birrificio, l'ha avuto in gestione dalla Fondazione Caristo di Bologna, Appennino Risorse, perché è un birrificio che è inserito in un progetto più vasto portato avanti dalla Fondazione Caristo su spinta del Comune di Granaglione. Nel 2001 questo progetto è partito su spinta del Comune di Granaglione e assieme ai castanicoltori di Granaglione, quindi con ricette fatte dall'Università di Bologna e da Mastri Birai è partita la birra alle castagne. Noi come cooperativa, dicevo prima, l'abbiamo solo presa come gestione dal 1 gennaio 2007. Ma chi è stato, diciamo, il creatore di questa birra? C'è stato un ideatore di questa birra? L'ideatore è stato il sindaco Nanni di Granaglione ed è stato soprattutto anche la volontà dei castanicoltori di utilizzare la castagna, unico elemento degli anni inizio Novecento fino all'ultima guerra, non solo per i prodotti tradizionali, farina, castagnacce e quant'altro, ma di provare anche a fare la birra che già veniva prodotta in Corsica. Ah. La nostra è una birra ad alta fermentazione e quindi diversa da altre birre anche alle castagne che si trovano sul territorio italiano. Ho capito, quindi abbiamo un sindaco birraio, abbiamo scoperto anche questo in questo viaggio tra le castagne e i marroni. Senta, io so che ha avuto molto successo, tra l'altro io l'ho assaggiata più volte questa birra, quindi la conosco molto bene. Ha avuto molto successo questa birra? Sì, sta avendo molto successo, ha avuto una partenza molto importante, molto significativa anche dal punto di vista di pubblicità, poi ha avuto un attimo di fermo perché si doveva scegliere il miglior modo della commercializzazione, Ora a macchia di leopardo sta arrivando in tutta Italia e anche in Danimarca, abbiamo già avuto due ordini dalla Danimarca e che è tutto a dire, quindi. Senta Boschi, non mi dica che il prossimo anno la portate all'Oktoberfest, perché se la portate all'Oktoberfest casca quel detto che dice che è come portare la birra all'Oktoberfest, come battuta, quindi speriamo che non la portiate, perché sennò non la posso più dire io questa battuta. Bene, grazie Boschi, grazie, la ringrazio, a presto e buona fortuna ancora con la birra Beltaine. Bene, continuiamo e ora andiamo a scoprire una ricetta particolare, una ricetta d'antan, una ricetta molto molto singolare. Buongiorno Marco Simoncini. Buongiorno. Senta, ci racconta allora la ricetta di sua nonna? Sì, è una ricetta che io ho assaggiato più di 40 anni fa, perché poi mia nonna è mancata, io adesso sono quasi 50, ero bambino, comunque il nome è quello un po' particolare di lasagne bastarde, che venivano fatte probabilmente anche per un motivo di carenza economica e di prodotto, facevano diciamo metà grano, metà farina di grano e metà farina di castagna, e semplicemente facevano queste lasagne come si fanno le lasagne normalmente, tirando la sfoglia e aggiungevano la farina di castagna, quel poco di grano che riuscivano a coltivare, mi dicevano anche in tempo di guerra, nei boschi della Lunigiana, perché di quelle parti era originale questa ricetta, avevano fatto delle radure battendo degli alberi, tiravano su un po' di grano, ma possiamo immaginare che fosse poco e stento, e quindi arricchivano le lasagne con la farina di castagna, poi veniva condita con olio e quando c'era una grattata di formaggio. Beh, era un piatto diciamo molto ricco, mangiato questo non si mangiava più nient'altro. Ah, sicuramente, diciamo che tappava il buco, ecco. Era un piatto economico e nello stesso tempo nutriente. Senta, sì. Senta Marco, lei non fa il cuoco perché so che è un musicista, ma lei diciamo la rifà questa ricetta? E io ci penso sempre, però appunto avendo poco tempo, diciamo che ho dei problemi nel tirare la sfoglia, devo fare ancora un corso di perfezionamento. Ho capito. Però le voglio segnalare, non so se lei ha parlato delle trinette avvantaggiate. No. Ecco, visto che siamo nei piatti arricchiti, un altro nome strano, che questo ci sarà un mare di genovesi, io sono genovese, che ricordo, comunque le trinette avvantaggiate erano sempre, quindi avvantaggiate, questa è la traduzione anche a orecchio, erano le trinette fatte con la farina con dentro la crusca, che quindi erano avvantaggiate, perché i genovesi tendono un pochino, diciamo, al risparmio, erano avvantaggiate perché potevano essere ad esempio condite con il pesto ma senza mettere i fagiolini. Quindi per risparmiare, insomma. Ma sai, esiste una pasta nella zona di Palmi, siamo in Calabria, che si chiama struncatura, nella quale dentro c'è la crusca, e infatti per tanto tempo è stata una pasta clandestina che non si poteva vendere. Ancora oggi in quella zona questa pasta la vendono raccolta nella carta gialla, proprio per dar l'idea di un qualcosa che ancora così è impossibile da trovare o si trova, diciamo, sotto banco. Ebbene, questa pasta, appunto, si chiama struncatura perché erano un po' tutti gli avanzi che poi venivano rimessi assieme nei pastifici, nei piccoli pastifici, e veniva fatta questa pasta che oggi è una specie di trenetta. Bene, Marco Simoncini, la ringrazio per questa ricetta complessa di sua nonna. Io sono convinto che qualcuno sicuramente all'ascolto la cucinerà. Bene, e abbiamo detto viaggio nella castagna e viaggio nel marrone. Bene, continuiamo ancora, e ora andiamo a Montella, altra capitale della castagna. Buongiorno a Beniamino Giannotti. Giannotti, voi avete una serie di prodotti a base di castagne. Io volevo sapere da lei, però, prima di tutto, perché si chiamano castagne del prete? La tradizione attribuisce alle capacità gastronomiche dei preti irpini questo prodotto. Dei preti? Irpini. Ah, dei preti irpini, perché c'era, quindi i preti avevano particolare, diciamo, adattabilità alle castagne? Sì, è una zona di castagne, come lei diceva prima. Sì. Attribuisce appunto a questi preti la ricetta. Poi voi producete comunque una serie di prodotti molto particolari, ce ne vuol parlare? Sì, allora ci tengo a parlare in prima battuta delle castagne del prete, che è un prodotto artigianale nonché tradizionale della nostra zona. Diciamo che dopo la raccolta, che avviene manualmente nel mese di ottobre, poi abbiamo tre fasi di lavorazione che vanno a caratterizzare questo prodotto. La prima fase è la essiccazione, che avviene in dei locali denominati gradali, perché non hanno un solaio bensì un gradicciato al primo piano, dove al di sopra vengono riposte le castagne e sotto invece c'è del fuoco acceso per 10-15 giorni, in modo che la combustione del legno di castagno va a ridurre la presenza dell'acqua della castagna. Il gastronauta. Riprendiamo il viaggio nella castagna da Montella, in provincia di Avellino, una delle capitali appunto di questo prodotto. Siamo in compagnia di Beniamino Giannotti, il quale ci ha così raccontato cos'è la castagna del prete, ma io voglio sapere da lui anche gli altri prodotti importanti. Giannotti, continuiamo dalla castagna del prete, passiamo alle altre specialità. Abbiamo delle castagne al rum o delle castagne alla grappa con delle bacche di ginepro, che si differenziano un attimino dagli altri prodotti presenti sul mercato, perché non usiamo una castagna fresca grassata, bensì una castagna secca. Poi abbiamo delle creme al cacao e delle creme alla vaniglia, nonché delle zuppe con castagne e funghi porcini o castagne e asparagi. Ah, addirittura castagne e asparagi, un altro accostamento insolito questo. Dopo, ne abbiamo già sentito un paio oggi, ma sicuramente anche questo mi sembra molto originale. Da cosa è venuto questo accostamento? Allora, è una ricerca che stiamo facendo sulla castagna. E abbiamo provato questi due prodotti che esaltano entrambi, voglio dire, abbiamo il dolce della castagna che si accosta bene al dolce dell'asparago. Bene, quindi complimenti, originale l'accostamento. Bene, io la ringrazio, grazie per averci così raccontato anche quest'ultima novità molto intrigante. Penso che qualche radioascoltatore proverà questo abbinamento castagna-asparago. Ma ora vorrei fare uno stop al giro nelle castagne. Ora beviamo qualcosa. E allora, di solito si dice sempre d'inverno le castagne, si parla di vin brûlé. E allora andiamo un po' a parlare di questa bevanda molto, diciamo, utilizzata quando c'è la neve, quando fa molto freddo, specialmente nel nord Italia. E allora andiamo alla gelateria Trevalli di Cavalese, in provincia di Trento, dove il patron Franco Simonazzi ha uno stand ai mercatini di Natale di Trento e lì serve il vin brûlé. Buongiorno Simonazzi. Buongiorno, egregio. Senta Simonazzi, propone ai nostri radioascoltatori la ricetta del vin brûlé. Sì, noi siamo qua ai mercatini di Natale e usiamo il vino prodotto sul nostro territorio e praticamente è fatto con la schiava, teroldego e la grain, in percentuale del 60% schiava, 20% teroldego e 20% la grain. Quindi tre vini ovviamente trentini? Sì. Tre vitigni trentini? Dalla Val di Cembra e dalla Piana Rotaliana. Certo, quindi siete davvero nel territorio, quindi usate veramente vino del territorio. Quindi diciamo sì, che la combinazione di questi tre vini, poi? Sì, questi qua servono per dare un po' di acidità al vino e un po' di colore. La schiava per l'acidità e il teroldego con la grain per il colore. Ah bene, proprio una roba scientifica mi sembra di capire questo, una roba abbastanza, tipo cocktail insomma. È molto gradito, sì. Poi mettiamo parecchio. Poi ci mettiamo i chiodi di garofano, sì. Dopo della cannella e delle sirelle, non so se sanno cosa sono le sirelle. No, lo spieghi. Sono quelle caramelle zuccherate al gusto di cannella, oppure noi usiamo quelle al gusto di cannella. Un pugno le mettiamo in... Noi facciamo sempre più o meno 50 litri di vino alla volta, o 100. Ho capito, poi si passa a riscaldarlo ovviamente. Sì, lo portiamo a ebollizione finché è tutto amalgamato bene e poi è pronto da bere. E quindi lei dice va ancora forte il vin brûlé, sì? Sì, noi ne vendiamo parecchio. Adesso il weekend è proprio quello trainante ai mercatini, dove viene consumato dai 500-700 litri di brûlé al giorno. Senta, ma cos'è questo prodotto, i frati embriaghi? I frati embriaghi praticamente sarebbe un dolce di una volta, del pane cotto nel burro sfuso, sì, e imbevuto col vin brûlé zuccherato con un po' di cannella. Beh, insomma, e questo lo impingono nel vino e lo bevono come dolce e come bevanda. Erano i nostri boscaioli che andavano nel bosco e si portavano dietro certo, un bel ricostituente. Senta, ma perché si chiama frati embriaghi? Erano i frati che si ubriacavano con questo? No, perché il pane viene un po' rosolato e sembra il colore del saio dei frati. Ah, ecco. Bene. Grazie a Franco Simonazzi della gelateria Trevalli di Cavalese, esperto in vin brûlé. E ora continuiamo a parlare di castagne e andiamo da Silvano Piombini della cooperativa agricola Valle Singerna. Buongiorno Piombini. Buongiorno a voi. Voi trasformate le castagne, cioè diciamo le lavorate, e qual è il prodotto che esce dalla vostra azienda? Ecco, noi raccogliamo le castagne marroni. Ah, marroni, non castagni, quindi. No, proprio marroni. Il marrone viene lavorato sia fresco per la vendita sui mercati, per fare le calde arroste, per queste cose qui, e in più viene anche essiccato e trasformato in farina e castagne secche. Senta, farina di marroni. Piombini, vogliamo dare la differenza tra castagne e marroni? Ma ecco, la castagna è un sottoprodotto, il marrone è proprio un innesto che viene praticamente la migliore castagna che può esistere, insomma il marrone è un innesto, è dolcissimo, di ottime qualità per mangiare, per fare anche farina e altri prodotti. Senta Piombini, voi quale marrone, quale varietà usate del marrone? Il marrone fiorentino viene chiamato, il marrone del centro Italia, lì noi siamo nell'Appennino toscano, quindi il nostro marrone è proprio il marrone di Giardino, uso quello di Marradio, quello di Caprese Michelangelo, il nostro è Caprese Michelangelo. Caprese Michelangelo, quindi Anghiari, San Sepolcro, quella zona lì? Sì, in quella zona lì, nella Val Tiberina. La Val Tiberina. Senta, quanto quest'anno un chilo di marroni, diciamo di quelli che voi commercializzate, quanto vanno, quanto escono da voi? Allora, all'ingrosso andavano circa sui 3 euro, 3,50 euro, poi a seconda delle pezzature all'ingrosso. Poi dopo al dettaglio, logico, si arrivava anche a 5-6 euro. Senta, in altre zone d'Italia, così quest'anno l'annata 2008 non è stata tra le migliori. Nella zona di vostra Toscana, diciamo Sansepolcro e dintorni, com'è andata? No, anche nella nostra zona è andata quest'anno, è stata proprio una delle pessime annate dal punto di vista di quantità. Qualitativo no, qualitativo è venuto un prodotto, siccome è venuto con la siccità, di ottima qualità dal punto di vista organolettico, ricco di zuccheri dolci, però la quantità è stata scarsissima, proprio ai minimi livelli. Senta, un'ultima cosa volevo chiedere, il prezzo è cresciuto rispetto all'anno scorso? Ma qualcosina sì, dato anche la scarsa quantità del prodotto che avevamo. Bene, io la ringrazio Piombini e ora rimaniamo ancora in Toscana perché andiamo in Garfagnan, andiamo da Ivo Poli, assessore all'agricoltura, nonché presidente dell'associazione Castanicoltori della Garfagnana. Buongiorno Poli. Buongiorno. Anche da voi l'annata non è delle migliori? No, da noi è andata abbastanza bene perché da noi non produciamo marroni, castagne da consumo fresco, ma siamo avvocati a farina di castagne, quindi abbiamo la doppia farinecchio e quindi non è un problema la pezzatura. È stata sì un'annata di siccità, però in sostanza è andata bene. Ecco. Abbiamo anche meno attacchi di balanino, quindi le castagne erano anche migliori e tutto sommato è una buona annata. Ecco, voi avete appunto la DOP sulla farina, ma qual è la varietà che utilizzate per ottenere questa farina? È unica o ci sono diverse varietà? No, noi abbiamo molte varietà perché proprio sono state selezionate in un millennio, quindi i nostri antenati, diciamo, basandosi sulle esposizioni, l'altitudine, i terreni, hanno selezionato quelle varietà che gli producevano bene tutti gli anni in tutte le zone e quindi ne abbiamo diverse. Ecco, quale uso consigliate della vostra farina della Garfagnana, diciamo in tavola, in cucina? L'utilizzo oggi si va dai piatti classici tradizionali del nostro territorio, che sono dalla polenta di Necchio, perché Necchio significa castagno, deriva l'antico dal castagno, quindi noi non diciamo polenta di castagna, diciamo polenta di Necchio, castagnaccio, Necchio, eccetera. Noi dai piatti classici, ripeto che la polenta con gli ossi di maiale salati, si va ai manafregoli, che è una polentina molto liquida, calda, con aggiunta sopra di latte freddo, panna fredda, alla fantasia oggi si fa questo piatto. Bene, io la ringrazio perché già si sente male, c'è una brutta comunicazione, ma poi abbiamo concluso, abbiamo avuto tutte le informazioni anche sulla farina di Necchio della Garfagnana. Ebbene, io credo che abbiamo veramente spaziato su tutti i prodotti possibili e immaginabili delle castagne, anche molti prodotti innovativi. Allora io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento domani alle 10 per la replica di questa trasmissione, alle 12:15 con il wine bar del Gastronauta e ogni giorno da lunedì al venerdì con la pillola delle 18. Buona castagna e buoni marroni dal vostro Gastronauta.